Friuli nel mondo. Centesima trasmissione dedicata agli emigrati. I nostri cori. Giorno di festa oggi per noi, per la fortunata meta raggiunta. Da 10 anni, infatti, un ponte vivo e palpitante continua ad essere lanciato ai fratelli friulani sulle invisibili onde dell'etere. In 100 trasmissioni iniziate dal compianto Chino Ermacora, Friuli nel mondo ha portato nei 5 continenti il suono delle nostre campane e delle nostre musiche, la voce dei nostri paesi e dei nostri artisti, il folklore e le tradizioni di civiltà del Friuli e particolarmente il palpito dei nostri cuori con le indimenticabili villotte. Ci torna pertanto gradito farvi riascoltare alcune stupende villotte che i cori friulani durante questo primo traguardo hanno cantato per voi, iniziando dal coro di San Lorenzo di Sedegliano, che sin dalla prima trasmissione e per tante e tante altre più di tutti ha fatto giungere la voce della piccola patria in ogni angolo del mondo. Di Arturo Zardini, il coro di San Lorenzo, diretto dal maestro Leandro Plenizio, esegue la villotta Il Chant dall'Emigrant. Coro di Feletto Umberto, diretto dal maestro Armando Del Fabbro, esegue la villotta La Stele di Marzuttini. Oh. Il Chant di Ligrie di Seghizzi viene ora cantato dal coro di Villa Vicentina sotto la guida del maestro Secondo Del Bianco. La patetica villotta Le Ben Ver di Fruch e Escher è eseguita dal coro Zardini di Pontebba, diretto dal maestro Gino Piemonte. Il coro I Cantori del Friuli, sotto la guida del maestro Luigi Garzoni di Adorniano, vi canta la stupenda villotta O Ciampanis de Sabite Sere, dello stesso maestro. Yeah. Ascoltate infine questa serenata, Tu as doi voi, di Zardini, eseguita dal coro di San Giorgio di Nogaro, diretto dal maestro Bruno Sebastianutto. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 100ª trasmissione a cura di Ermete Pellizzari.